Il desiderio sessuale è la fase zero del ciclo di risposta sessuale, cioè la fase che poi dà avvio a tutti gli altri meccanismi, che sono quello di eccitazione sessuale, di plateau, orgasmo e risoluzione. Quando parliamo di desiderio sessuale, parliamo di una fase che avviene nel cervello, che è il primo organo della sessualità. Senza cervello tutto il resto del corpo non funziona, non lavora. Ed è una fase in cui spesso non arriva spontaneamente, spesso c'è un input che arriva dagli organi di sensi, magari dal tatto, dalla vista, udito, olfatto, gusto. E questi input che ci possono essere, ma possono anche non esserci, a volte basta solo un pensiero e basta, che noi evochiamo volontariamente. Questi input vengono valutati sessualmente desiderabili, in accordo ai propri gusti, che sono soggettivi, ognuno ha i suoi. Tra l'altro i gusti sono molto collegati a una classificazione che ognuno fa, che si chiama riguarda i tratti di genere, ok? I tratti di genere sono tutto quel modo con cui noi valutiamo che qualcosa sia rappresentativo di un particolare genere. Alcuni tratti li riconosciamo più maschili, altri più femminili. E questo non è universale, assolutamente. Il mondo della moda in più occasioni ci ha spiegato come si può sfidare alcuni preconcetti sui tratti di genere, che assolutamente poi sono culturali. In alcune epoche certi vestiti sono maschili, in altre epoche certi vestiti sono femminili, certi colori, certe forme, in certi periodi c'è la donna più formosa, in certi altri periodi c'è la donna invece con le forme meno pronunciate, e viceversa. Al maschile tutto può essere più o meno discutibile a seconda del periodo. I tratti di genere sono questa, una valutazione molto personale, che poi a volte, proprio per il fatto che sia estremamente culturale, è stata poi presa anche in carico tutta una confusione legata a una famigerata teoria del gender che poi non è mai esistita. Ora, parlando però di questo, il rapporto tra gusto e tratti di genere è al centro del tema dell'orientamento sessuale, che è un qualcosa altrettanto collegato al desiderio sessuale. Quindi c'è tutto questo procedimento dietro che è molto complesso, fatto di tanti passaggi, che poi però porta al fatto che in qualche momento la mente, il cervello, si eccita e dà al corpo il comando di attivare il ciclo di risposta sessuale. Per questo la fase 0 poi fa attivare la fase 1, quella di eccitazione sessuale. Al maschile e al femminile, come per tutte le persone, questa fase può essere vissuta in molti modi diversi a seconda dei contenuti, però il procedimento è sempre lo stesso: un pensiero valutato sessualmente desiderabile. In questo senso, poi c'è tutto un aspetto di progettualità legato al desiderio, cioè quello che viene desiderato, c'è anche una qualche pensiero più o meno consapevole, più o meno attivo, di voler interagire con quello che si valuta sessualmente desiderabile. Altrimenti si parla non tanto di un desiderio, ma di una fantasia sessuale, che è un concetto leggermente diverso, che vale la pena distinguere. Desiderio sessuale significa che c'è una progettualità. Fantasia sessuale significa che è un pensiero che in teoria potrebbe essere sessualmente desiderabile all'interno di un momento intimo, magari di masturbazione, ma anche di sessualità a due. Potrebbe essere un pensiero attivabile per sentirsi più eccitati sessualmente, ma contemporaneamente non porta a nessuna progettualità, a nessuna azione. Può essere una fantasia attivata volontariamente per eccitare il proprio corpo, poi però facendo altro. E è una distinzione fondamentale perché le fantasie sessuali sono totalmente innocenti, non hanno poi delle conseguenze. Quello che può essere un problema, che spesso poi si manifesta nel tema delle fantasie sessuali, è quando le fantasie sono confuse con qualcosa che non si capisce come mai non sia un desiderio, e allo stesso tempo come qualcosa che va a toccare questa assenza di progettualità che non viene vissuta come una caratteristica di questo pensiero, ma viene vissuta come una propria mancanza, una propria difficoltà, come qualcosa di problematico. E in quel senso spesso è un argomento che si va a collegare a un tema legato all'autostima, al senso di autoefficacia, che può compromettere un rapporto sano con il desiderio sessuale. Quindi quando ci sono di queste difficoltà, poi a volte certe fantasie sessuali possono diventare così difficili da gestire, da essere confuse con dei desideri irrealizzabili, e a volte essere un meccanismo che diventa così frustrante, così doloroso da contribuire a dei ragionamenti che poi possono facilitare purtroppo delle violenze sessuali, che sono quindi delle situazioni drammatiche, che però è importante che sia chiaro, non sono collegate al desiderio sessuale. Non si arriva alla violenza sessuale perché si ha molto desiderio, ma si arriva alla violenza sessuale perché si hanno dei problemi legati all'autostima e al senso di autoefficacia che porta a confondere dei processi di valutazione legati alle fantasie che starebbero soltanto lì, non sarebbe da mettere in pratica. E infatti quindi c'è tutta l'antisocialità collegata al poi commettere un reato, una violenza alla persona, che è una cosa gravissima. In questo quindi, per noi però è tanto importante, parlando di desiderio sessuale, distinguere il fatto che tutto questo ragionamento sul cosa eccita la sessualità è un qualcosa che può essere da sempre presente o può non essere mai presente, e se non è mai presente, quindi si parla di un'assenza di desiderio permanente, che probabilmente è collegato un po' a quel discorso dei gusti, un po' dei tratti di genere, un po' a un proprio modo di vivere le fantasie sessuali, un qualcosa che quindi però non ha mai portato un desiderio sessuale, e quello quindi ci ricollega al fatto che prima abbiamo accennato, si collega agli orientamenti sessuali. È probabilmente un'esperienza molto vicina al tema della sessualità, che è un orientamento sessuale di cui anni fa si aveva difficoltà a parlare, oggi se ne parla un po' di più, ma che riguarda poi circa, statistiche poi sempre un po' confusionarie, ma circa 1% della popolazione, una cosa abbastanza diffusa alla fine. E diversamente, se il desiderio sessuale prima è presente o è presente a periodi e poi viene a mancare, allora si parla di un problema acquisito che può essere quindi secondario a qualcosa. Può essere secondario a un problema nella sessualità, che rende la sessualità così problematica da far perdere desiderio nella sessualità, o può essere secondaria a qualche altro processo che va a danneggiare i gusti, l'identità, i tratti di genere e, o altri aspetti legati al pensare la sessualità o al sentire tutti quegli input che prima attivavano il desiderio sessuale. Parlando al femminile si parla poi del disturbo del desiderio sessuale, dell'eccitazione sessuale femminile. Vengono messe assieme perché le due cose sono difficili da distinguere come procedimento tra eccitazione e desiderio al femminile, mentre invece al maschile vengono distinte in maniera più netta parlando di desiderio sessuale ipoattivo. In ogni caso, quando si ha una difficoltà all'interno del desiderio sessuale, a volte chiedere aiuto può aiutare a migliorare per iniziare a vivere in maniera più salutare il rapporto con i propri pensieri, con i propri desideri e con la sessualità.